Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Vorrei esprimere il mio disappunto sull'uscita di Rutelli dal Partito Democratico. Non tanto per la persona e le sue idee, ma per il gesto in sé. Credo infatti che se ognuno si comportasse così in politica, ci sarebbero tanti partiti quanti sono le idee di ogni elettore. È chiaro che non ci sarà mai all'interno di ognuno dei due poli un solo partito che rappresenti in toto le idee di tutti gli elettori. L'unica cosa da fare, di conseguenza, è indirizzarsi verso quello che sintetizza meglio il nostro pensiero. Se ci si comporta alla Rutelli, si andrà verso la frammentazione infinita. Io voto PD anche se non condivido tutto di quel partito. L'alternativa sarebbe l'astensione. E per la democrazia, cosa è meglio? Marco da Brescia. Non abbiamo la mobilità sociale, ma consoliamoci con la mobilità politica. E per questo dobbiamo dire un grazie sincero e sentito all'onorevole Francesco Rutelli. Un esempio vivente di mobilità autentica, scevra da ideologie, principi e convinzioni. Marco. Il PD ha un nuovo segretario, finalmente. Uno di questi giorni si presenterà con un cartello, come Povia a Sanremo, con la scritta «That's all folks». Volevano fare gli americani, ma in Europa l'unica cosa che aveva un campo democratico era la DDR, che non esiste più da 20 anni. La globalizzazione gira talmente veloce che il bipolarismo è ormai già superato. Hai voglia a svoltare, Rutelli. Ormai i partiti fuori dal governo non contano. Contano solo le idee, se si hanno. Giuseppe. Non so se quello a cui sto assistendo in questi giorni sia il festival dell'umorismo o dell'ipocrisia. Nei vari dibattiti viene posta sempre alle persone, agli ascoltatori o agli intervistati la stessa domanda, ovvero qual è la differenza tra il caso Marrazzo e il caso Berlusconi. Ebbene, se qualcuno si azzarda a dire che Berlusconi va con le donne e Marrazzo con i trans, scatta una reazione indignata del tipo «Non ci si azzardi nemmeno a dire e a pensare questo!». In realtà, la differenza sta proprio qui. Berlusconi, agli occhi del popolo italiano, che in buona sostanza maschilista lo è e lo è sempre stato, esce rafforzato da questa vicenda. Lui va con le donne. Marrazzo vorrei vederlo davanti a un microfono, in una assemblea, a scrutare le labbra dei suoi interlocutori, per scoprire chi riesce a trattenere il sorrisino compassionevole e chi no. Lui sa che la sua era una posizione insostenibile, e quindi non solo si è dimesso, ma ha voluto sparire, e non lo rivedremo più. Questa è stata l'unica cosa che poteva fare. E per questa sua scelta, che non è una scelta intelligente o coraggiosa o altro, ma semplicemente l'unica scelta possibile, qualcuno, vedi Rosy Bindi o Concita De Gregorio o tutta la sinistra, ci viene a dire che Marrazzo ci ha dato una lezione di vita. Non so se ridere o indignarmi. Franco da Treviso. Chiesti 7 anni di carcere per corona. Un po' di esagerazione per un ragazzo che recita la parte dell'arrogante. Probabilmente il PM non concepisce che anche quello è comunque un lavoro. Il reato di corona è identico a quello dei carabinieri che hanno ricattato Marrazzo. Staremo a vedere. Valerio. Scrivo in riferimento al caso Gentilini. Un uomo che sale su un palco e comincia a sparare a zero contro gli immigrati, istigando apertamente la violenza, mi dispiace, ma va condannato. Non basta girare le spalle e fingere di non vedere, perché tanto con quelle cose non si è d'accordo, ergo non ci riguardano. E nemmeno dire che, visti i consensi, sono idee condivise da molti cittadini. Uno dei compiti della politica è anche quello di tenere l'ordine sociale. E se determinate pulsioni della società trovano legittimazione istituzionale, anzi vengono da questa alimentate, ci saranno bande anche criminali che si sentiranno legittimate ad avere mano libera di muoversi sul territorio. E se alla fine danno davvero fuoco ad un campo rom, le colpe sono di un clima che non condanna l'istigazione alla violenza e anziché spingere all'integrazione, crea tensione. Un uomo politico deve agire con senso di responsabilità, altrimenti di questo passo chiunque inizi a inneggiare all'antisemitismo e alla distruzione dell'altro avrà campo libero nel dire queste cose. E rifarsi al liberalismo per giustificare certe uscite come libertà di espressione significa accettare un relativismo culturale che non ha nulla a che vedere con le vere libertà di coscienza dell'individuo. La società in cui viviamo oggi è una polveriera. Almeno una volta a settimana si sente di una violenza omofoba o razziale da parte di gruppi spesso dichiaratamente di estrema destra, che diventano sempre più sfrontati nelle loro azioni. E basta fare un giro su Facebook per notare come stiano generalmente regredendo gli istinti delle persone. La pagina che inneggiava all'assassinio di Berlusconi è una spia di queste tendenze estremiste, insieme a molte altre. Gianluca. Non si critichi la libertà di pensiero, di parola e direi anche di stampa, visto che siamo in un paese che sta all'84esimo posto per quel che riguarda la libertà di stampa. Quindi su quello che ha detto Gentilini non credo che si debba sindacare oltre. Inoltre, desidero esprimere una mia opinione sul fatto che ormai i problemi dell'economia e di occupazione passano in secondo piano rispetto alla primaria importanza che i media danno sugli scandali personali di Berlusconi e Marrazzo. Si pensi piuttosto a governare bene o a fare vera politica, che dal termine greco significava governare la città. Cordiali saluti, Giuseppe di Roma. Il ragionamento dell'ascoltatore che dice «Se Berlusconi è stato tanto indagato, qualcosa avrà fatto» è un tipico esempio di come ragioni la gente comune. I magistrati, sapendo questo, si sono accaniti per demolire Berlusconi sul piano dell'immagine, per evitare che potesse fare la riforma della giustizia che temono tanto e che è in programma da sempre. Marco. Caro direttore, ho sempre pensato che Silvio Berlusconi avesse a sua disposizione un gruppo di lavoro fatto di esperti in marketing, sondaggi, indagini statistiche, che lavorasse per lui 24 ore al giorno. Cosa fanno questi esperti? Studiano il popolo e cercano di interpretarne le esigenze e i sogni. Spesso i desideri, oltre che intercettati e tramutati in slogan acchiappa consensi, vengono anche creati ad arte tramite le TV complici. Quando si vuole sapere immediatamente cosa pensano i teleelettori, cosa si fa? Si esterna qualcosa, anche una sciocchezza, tanto il giorno dopo si può sempre smentire. Ma intanto il popolo ne parla e i sondaggisti studiano. Si può governare una nazione in questo modo? Dove andremo a finire? Crocifisso Aloisi. Caro Aloisi, i sondaggi sono una realtà ormai importante sia nelle scelte politiche sia in quelle economiche. Avere il polso dell'opinione pubblica può certamente essere un elemento capace di aiutare una logica di buon governo. Detto questo, il vero rischio è quello che lei giustamente sottolinea, è quello di cercare il consenso dell'opinione pubblica più con la politica degli annunci, delle promesse, in fondo delle illusioni, che non con gli atti concreti, le scelte specifiche e soprattutto efficaci. E bisogna ammetterlo, in questa fase politica, se si mettessero in fila tutte le promesse inattuate, si arriverebbe facilmente fino alla luna. Abbiamo una politica fatta di tante parole e frasi a effetto e di troppo poche riforme. Troppo poche riforme attuate per rendere più moderno ed efficiente il paese. Abbiamo ministri che sembrano impegnati più a partecipare agli intrattenimenti televisivi che non alla gestione dei propri ministeri. La politica del fare è stato ed è rimasto uno slogan. Di vere riforme per tagliare le spese improduttive e per rendere più efficiente lo Stato non se ne sono viste. Le forze dell'immobilismo sembrano ancora molto più forti di quelle del cambiamento. Che si tratti di abolire le province, di alzare l'età pensionabile, di ridurre le tasse, tutto si ferma di fronte a una minima possibilità di contrapposizione. La massa dei crediti vantati dagli enti statali nei confronti dei contribuenti morosi è enorme e andrebbe ridimensionata. Per fare ciò, però, la politica dovrebbe impegnarsi per trovare soluzioni economiche e morali nell'interesse di tutta la società. Dotare le esattorie di potenti strumenti per combattere l'evasione finora ha prodotto risultati scarsi e moralmente aberranti, alimentando il business della delinquenza organizzata, che quotidianamente interviene sia prima che all'atto delle aste mobiliari o immobiliari. Sappiamo tutti che il PIL italiano è sostenuto dal popolo delle partite IVA, che nell'ultimo decennio ha dovuto affrontare enormi difficoltà dettate dagli sconquassi della politica, della globalizzazione e dal restringimento del credito. Non si riesce a comprendere come si possano cogliere i segnali di ripresa se in questo contesto lo Stato continua a pretendere di poter incassare integralmente quota capitale, more ed interessi, avviando nel contempo le azioni di vendita all'asta dei beni strumentali delle ditte debitrici. Lo Stato può anche continuare in questa politica, ma deve essere consapevole che al posto delle partite IVA troverà solo usurai e mafiosi, e tutte le energie e capacità sane andranno alle ortiche. Sarebbe auspicabile e opportuna una rottamazione delle cartelle esattoriali, che comporterebbe un immediato gettito, una notevole contrazione dei costi di esattoria e un aiuto alle famiglie e agli imprenditori sani che vogliono risollevare le proprie attività. L'ipotetica perdita di gettito verrebbe compensata in breve tempo dal ritorno positivo che tale operazione avrebbe sul mercato economico. Se dovesse mancare il coraggio politico, lo Stato dovrebbe comunque sostenere quelle realtà economiche che, sprezzanti delle difficoltà, intendono risollevarsi dalla crisi affrontando operazioni di ristrutturazione del debito. Giuseppe Caserta. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci